deve essere che qualcuno ti ha soprammodulato. Sono tutto attraverso. Se ne fa vita. nessuno, signor microfono, va bene con tutte le radio, quindi non problem. Va bene, allora, no, niente, sto scherzando, se vuoi venire a prete, passa, non sono problemi, sono proprio di domani. Non me la fotte nulla a me, tanto non mi fa, lo sai, no? Insomma, lo voglio usare, almeno oggi lasciamelo usare, poi domani te lo prendi, bene, va. Quindi porta tutti i baracchini in una certa maniera, capito? Poi tenendo conto la di Racla. E come mai? È una storia lunga. Lunga, lunga. Adesso non sapevo quanto erano forti. L'accetta è più forte. E adesso si fa bene. Adesso sono di nuovo in cerca. C'è. Era 25. Adesso è a casa, è così. Ma se per abita? Cava. Quel problema risolto, niente. Cosa tra? Ho detto quel problema risolto. Sai che non te lo so dire, sarà portato o che cosa? Perché so che stava cercando casa e quindi avevo mollato, capito? Cava. Come sta radio, Cla? Cosa? Dimmi come sta la modulazione mia. Sempre lo stesso, perché? Come sempre lo stesso? È un altro apparato questo. Sembra di avere MC 60. No, questo è l'Intec, il 490 è. Va bene, quella modulazione. E io sto usando il baracchino lo stesso col Savelta. Cava. No, siccome io ho fatto una modifica a questo apparato dei canali. E niente. E siccome è andato tanto tempo fermo. Ehi, vabbè, baracchino, che se ti fermi da lì non succede niente. Cosa le fa? No, io sto usando un baracchino. Un 34 canali addirittura col Savelta va benissimo. Cava. No, questo adesso c'è canali sopra, tutti quanti ce li ha. No, questo è un omologato 34 canali, un tornado, cos'è? Un Intec che tornado 34S. Ah, è già vado di quello che c'ho io. Fermo, io sto andando al 490 adesso della Intec. Ma quello che ti aveva venduto Franco, che era mio. Cava. Cazzo, ci siamo lui, Alguirsi. E ci hanno trovato come fare la modifica dei canali, che poi è una cazzata, è una saldatura che devi eliminare. E allora adesso poco fa gliel'ho fatta. Va bene, grande, questo bene sta uscendo. Dice che è una bomba questo microfono. Cava, no, va bene, è che all'inizio ti stavo riconoscendo, capito? Avevo perso l'orecchio di sentirti quei baracchini normali, diciamo. Attenzione, Fresco! Avanti, bombolo, in compagnia di Daniele. Che Daniele? Attenzione, Daniele, ho accorti in occhi. Daniele, ma non senti a bombolo? Cava, ciao, bombolo, ben sentito, buonasera. No, mi hai sentito anche a te, non mi intendi? Cava, già ti sento. A me non accorci. Chi è? Ci vediamo. Cava, buonasera a tutti di nuovo, dai. Ciao, Massimiliano il bulldozer, guarda se senti a Daniele. Ciao, Massimiliano, ben sentito. Ciao, Daniele, ben sentito anche a te, buonasera, ben ascoltato. Ogni tanto devo attendere, Raul. Ogni tanto, quando ho 5 minuti liberi. Positivo il capo di Rogero. Davvero, quello che c'è lì al canale sopra e sotto, via, lo sai? Sono pronto io, sul canale 10 rimango io. Ma ce li ha me. E qual è il tasto? Dove c'è scritto HI? Negativo, il primo tasto partendo sulla tua sinistra in alto. Ah, dove c'è scritto DIM, quello lì. Il primo pulsantino, già tre scatti, al centro, cave normali, sopra e sotto. A sinistra, ci sono quello delle stazionali, là. Ma quello lo cerca, a sinistra e poi a destra. Ma, vai a dirlo tu, cosa gli ho detto io? No, Cla, ti hai detto a sinistra e tu che eri fissato con la destra. Hai fatto adesso al centro, canali normali. di sopra, ma che era di sopra e sotto che era di sotto, così è. Brava. Sandro, non lo senti a bombolo? buonasera, cordialità a tutti, dai, da questa parte Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera, Claudio Sparviero, compagnia Antonio Buomolo e Daniele, sono l'apportatore Giovanni, Daniele. Ciao Giuseppe, ben ascoltato. Vai a tu. Giuseppe, buonasera, ben ascoltato. Caffè fa è andato su Torra, che ho un po' di difficoltà. Non sente neanche a me se è staccato, adesso ho staccato, adesso attacchiamo 4 bip, vediamo se mi sente. Mi sentivo 4 bip, io sono Silva, ciao Giuseppe, buonasera, ben ascoltato e saluto. Li hai sentiti i bip, Sandro? Ok, riprendo io, credo che Sandro sia spostato e di parecchio pure. Qui stava arrivando malissimo, Pappa Sandro, non sei nel 27.075, secondo me non ci sei, ci sei vicino però non sei centrato. Giusto per fare due passaggi, adesso vi lascio, vado a cena e se ci siete. saluti a casa, Daniele, bocca al lupo, speriamo trovi qualcosa da fare. Ma ci picchia, mi dispiace, pensavo di sistemato. E ciao anche a Sandro, eventuali ascoltoni, dai. A più tardi, se coincide, Claudio Sparviero, QRT, Daniele, porta il microfono. Ok, dai qua. Dai, ci ascoltiamo alle prossime, anche adesso chiudo, saluto i circolari a tutti e vado a caricare un po'. Ciao ciao! Ciao Daniele, ciao Cla, buona carica, ce la riascoltiamo presto, dai, avanti bombolini. Ma ciao Daniele, ciao Claudio, buona carica, ce la risentiamo, capa. Ciao a tutti a Roma, riprendi Sandro, ciao Daniele. E quindi di Ossa, QRM a Manettone? Manettone. 48. 48 e... ce l'ho anch'io, guarda. E in effetti, sì, quando c'è QRM... Vai bomboli. Il 48 normale, vabbè, quelli che giù già sono più tranquilli. Il 48 normale è allucinante. Non tanto fatto per il QRM, no, fare coi se. Infatti. I due già sono un pochettino più tranquilli, dai. Con i coppi con quello smitter del corso del magnum. Allora, Santiago 6 o Radio 5? No, la mara, così secco, aspetta che attacco l'altro bomboli. Lascia fare questo che già passa. Se no attacco il Saturnetta. Ma non lo so, c'è qualcosa nell'aria oggi, non lo so, anche Sandro mi sta arrivando un passo, strano però. Si è attenuato o no? No, qui è tutto a posto. No, perché quello baracchino lì hanno l'attenuatore già, no? Hai capito, le key game di cavolo si chiama, adesso non lo ricordo bene. Dirà quello attenua, Mi sembra un po' strano questi segnali qua. Ecco, dammi un minuto solo, che vado a prendermi una cosa da cucina, un attimo. Ma gamba. Eccomi qua. Ci sono, Allora, vediamo un po'. Come mi senti? Benissimo. Fai un passaggio più lungo. 2-3, prova. Eppure anche girando il coso del... Vediamo un po'. Ora. Fai un passaggio. No, hai sbagliato, Giuseppe, quella è la modulazione. Aprila tutta. Tutta aperta. Ma devi controllare l'altro, quella è la modulazione, Giuseppe. Tutto aperto, Sì, tutto aperto. Prova a fare una cosa, andare in FM a vedere se aumenta. Perché così sono fatti così. Appagata, andiamo in FM. In AM a vedere come ti sento. No, ho capito perché qua non l'ho fatto. Ma, caffè, i misteri della frequenza. Devi stare parecchio. Vabbè, dai, già funziona lo stesso, va. Già va bene, già va bene. Hola. E ne va come coco. Va benissimo. E quattro watt sto uscendo, Giuseppe. Quattro watt. Con quell'apparecchietto lì, l'apparecchio che hai visto. A Milasco. Sei a Milasco. Non so, a Milasco sei online. Chi è sulle 10 che fa chiamata? Sì, sto cercando a Pilastro. No, negativo, non nessun Pilastro qui sul 10. Giuseppe da questa parte. No, sto cercando a Pilastro. Cognomi non si dicono in frequenza. Kappa. Va bene. Praticamente uno che non lo sa. È positivo, cosa si vuol fare? Beh, tutto bene, Sì, tutto a posto, tanto si tira avanti. Sì, come sta? Come? Bambina. Ah, tutto bene, grazie a Dio, tutto a posto, Anto. Sempre vista. Kappa, sempre il ribelle. Tempo loro e adesso mi mannaggia. Uia. Ora. No, già sta girando, dai. Ma forse deve girare. Kappa. Avannaggio, 1, 2, 3, 4. Adesso fra un po' metto a posto anche il coso, il Maxon, e sono 5. E chi è che te lo metto a posto? Forse quella persona là? Se ci riesco sì, Anto. Perché è un peccato di quell'apparecchio. Sì, allora se glielo taglio te lo metti a posto. E cappa. E oggi a Trabacco, tutto bene? Tutto bene, sembra che vada bene. Uia. Non c'è poco lavoro, che crisi in Casserona. Lo so, Anto, lo so, non c'è niente in giro. Uia. Guarda, ci sono persone che... Io quest'ultimo periodo se ne stanno guardando tutti i colori, guarda. Uia, e noi credevamo che ne stavamo uscendo piano piano da questa situazione. Mi sa che ci stiamo entrando, Anto. Forza, con questi maledetti, che non si fanno più vivere. La carità, che taglia proprio, guarda. Oramai, Ghisli, mi sa a casa che anche il sangue ce ne stanno succhiando. No. Cazzo, ma sai che quello che mi fa più bestia dice che certa gente non rispetta neanche il lavoratore, non rispetta la propria persona. Certa gente istruisce per queste cose. Quella gente pensa solo a mangiare, Anto, non è che va a pensare a noi, no. Quella gente mangia e basta. Quella gente, i cittadini, comune cittadini, insomma, cioè persone come noi. C'è un sacco di gente che ha detto che hanno fatto bene, boom, bam, tutte queste cose. Brutto animale che non c'è altro. Adesso vediamo che cosa ne viene fuori. Domani andiamo a questo benedetto referendum. Non ci vado, perché non mi interessa proprio quella porcheria. No, ma questo è... non è che stiamo andando a votare nessuno, no. Questo è un referendum che stanno facendo per chiedere alla popolazione se diminuire i consiglieri regionali e diminuire lo stipendio dei parlamentari. Calvo, io vado, questo è importante. Ora sentita, una di quelle è che vogliono cambiare le province. Meno sprechi, meno spese, meno gente che mangia, meno consiglieri comunali e meno tutto. Però io vado, cavolo se vado. Sta scherzando, c'è una provincia di Sassari a fare la divinità, ma una provincia. Ma sta scherzando, ma manco per sogno. Quella non sono d'accordo, tutte le altre cose sono d'accordo. Quella cosa là non sono d'accordo, ma a me non... Se non voglio andare manco più a votare. Senta, c'è anche voto. A chi vuole? Cioè io ne ho anche la cosa di non avere più la fiducia. Sì, lo so Anto, ma la provincia di Sassari non la toccano, non è in discussione quello, sono le province che avevano fatto diversi anni fa, tipo Olbia Tempio e tutte quelle storie là, anche lì dalle parti di Cagliari, Iglesias e compagnia bella, hai capito? Le province che c'erano prima, Sassari, Cagliari, Nuoro, non le toccano. Toccano solo in base a quello che decide la popolazione tutte le altre province che sono state messe, che secondo me c'è troppa gente che ci mangia. Beh, non credo già. Pensi che cambia qualcosa? Secondo me no, anche facendo questo referendum non cambia un benedetto accidente, che rivenga tutti quanti, anche facendo questa cosa qua. Lasciamo perdere che non è più credibile niente, oramai vogliono arricchirsi loro, farsi via di loro e noi farci a vivere come i topi. Se arrivo e cucire qua, ne sono troppo sicuro. Vabbè, ma sai cos'è poi il discorso? Cioè che almeno non posso dire che non ci ho tentato, visto e considerato che ci stanno dando questa possibilità, visto che siamo ancora in democrazia, cioè un domani non è che posso dire mannaggia o non ci sono andato e magari le cose potevano veramente cambiare. Alle votazioni vere e proprie non ci vado per andare a votare quei quattro partiti di merda che ci sono, quello no, però a questo referendum vado, è come se vado. Gamba. Poi io sono un pochettino così sono, guarda Giuseppe, per tutte queste cose che ho sentito, non è più credibile qua, sinceramente qua, lo dico, io non credo più a nulla e sicuramente non andrò manco più a votare più a fare niente perché veramente è lo schifo, guarda. È positivo, dai, anda bene, pazienza, uia, mamma mia, mal di schiena oggi, per la metà mi basta. Così è, dizia Ghissu, e così sia, già va bene. Ma chi c'è la sindrome dell'OM? Eia. Cagare l'OM. E qual è Anto? Chiami invece. Eia, prima erano tutti OM. Ah, c'è della anestesia, Becco, c'è la risposta di Cania, Volvo. Ma a quei tempi un bel po' primi, un bel po' tipo. Non lo so. Tu hai usato molto OM, così. A quei tempi, ti ripeto, loro c'erano. C'erano loro e via, e si tirava avanti con quelli. No, il motore Fiat. No, sono Fiat quelli. Quelli sempre, poi era passata il veicolo e meno. E sta andando, l'hanno tutto rimesso a posto, se lo vedi è diventato nuovo. questo servo stesso era? No, ce l'aveva. Marce sincronizzate. Aveva 12 marce sincronizzate. Ah, è tutto diverso da quello di muoverne. Voglio vedere io. È bravo pure quello. Che prima non si sa, il camionista dice che prima era camionista, vero? Ma guarda che dicono molti, che si cambia roba. Come guidare una signorina, la può guidare anche una signorina. Adesso sì, sono più belli, se ti fidi, certi camion che stanno uscendo che certe vetture, ma molto più comodi. Ma a livello di motore con la differenza com'è? Ma guarda, come motore questi da adesso fanno schifo, con tutta l'elettronica che c'è, guarda, non fa manco più affidarti a metterti in strada, che se si ferma sei tranquillo che rimani lì, non è come quelli là che bene o male ti portavi dietro un po' di chiavi e il discorso riuscivi a risolverlo. Chiamma. Beh, vabbè, questi adesso se vanno bene, vanno bene, se vanno male... Infatti, io ho un amico che fa il continente, il MAN, nuovo, ma sai cosa vuol dire l'uovo di zecca, marce automatiche, cazzo, ce lo vedevi un trattore di quelli bello, ti dico veramente bello. Quello dopo 8 di chilometri gli si bloccava. E doveva per forza di cose intervenire in officina autorizzata e col computer gli dovevano bypassare quel difetto, se no manco se gli mettevi una bomba sotto riuscivi a muoverlo. Allucinante, raga. Oh, ma sono cambio comunque di quel difetto che ha fatto, adesso sono ben riusciti anche. E ce ne sono ben riusciti, Anto, ce ne sono di tutti i tipi. Figurati che c'è talmente elettronica che secondo che baracchino metti ti entra in contrasto il baracchino con il coso, con la centralina del mezzo. Come velocità? Quanto va un cambio del genere? Quanto vale velocità massima? Ah, quelli vecchi 100, 110 già ci arrivano, scarichi. Perché carichi manco per idea? E carichi già camminano, carichi lo stesso già camminano, se riesci a farli prendere velocità già vanno, ma la schinciano. Molti dicono che dopo il 60 il camion non è più... al 100% di cosa. Ma non è vero, anch'io con quello che avevo prima camminavi 70, 80, 90 carico e va, non è vero. Invece questo nuovo, ma la sorte, con questo devi stare attento perché questo te esce da sotto il culo e manco te ne accorgi. È potente. Eia, Anto, potente, però camminano troppo. E così è. Così sono. Chiappa. Non sai chi sono migliori, i Mercedes o i Toto? Sei, ti fanno più bene, di questo o Mercedes? No, non lo so. E lì siamo, in grosso modo, soltanto che il discorso anche dei camion che tu prendi a parità di coso, di costo, lì vengo è meno accessoriato, io li ho provati, sono anche meno comodi se devo essere sincero. Motori oramai, è tutto un blocco e Anto. Dipende, magari se vuoi con l'accesso laureato c'è, ma costa di più, c'è delle più belle. Eia, ma se io compro un Mercedes allo stesso prezzo dell'Iveco, anzi se ti fidi è costato, perché avevo fatto il preventivo anche alla Iveco, e l'Iveco costava di più con meno accessori. Ma avrei visto il Volvo? Eia, belli sono. Ma ho visto anche i cosi, i... Bah, a Napoli, quando si balla si chiama lì, e, bah, quando me lo ricordo te lo dico, aspetta, ci penso un minutino. Ah, i nuovi DAF che sono usciti, cavolo che belli. Cos'è? I DAF. Ah, sì. Sono un carino, insomma. Cavolo, stanno uscendo delle motrici, dei trattori che sono un... ma ti dico, veramente belli. Ce ne sono per le macchine. Per le macchine, ma se le fanno pagare, ma la spinciola. Cosa se le fanno pagare? Ah, sì, io quello che non riesco a capire, una macchina come abbiamo preso noi, allestita com'è, con la centina, con lo spoiler, con tutti gli accessori possibili e immaginabili, è costata meno di un Iveco normale. Tu dire. Ah, se no mi vorrei guadagnare me e subito. Ma, però magari se però lo compro, quando lo porto in officina non so. Ma non credere, non credere a tu, perché noi abbiamo sia l'Iveco e entra nell'officina Iveco e il Mercedes nell'officina Mercedes. Abbiamo confrontato i tagliandi e si paga più con l'Iveco. Eia, non è molta la differenza, sono 120 euro che si paga in più nell'officina Iveco, però è più cara. Ma se oggi cambia la casa, cambiere la cappa, la giacca, portare il lavare. Eia, vabbè, quello è tutto potenza. Quelli sono camion che lavorano in cava e della velocità non gli interessa, quelli hanno un bel di potenza. Ma sono anche quelli di Astra che fanno movimento terra, sommarina. Belli sono, belli. Sono troppo rigidi come il camion. Eia, lo so. Beh, in cava bisogna saperci camminare, mi Anto. Dentro la cava non è facile. Ogni volta che vanno il motore. Io mi ricordo quando lavoravo, quando facevamo movimento terra, e andavo alle cimenterie a Scala di Gioca a caricare. Cazzo, ma vedevi certe bestie, cazzo, e ti mettevi le mani in testa. Eia. Sì, ma bestie, cazzo, con certi massi sopra, cazzo, è qualcosa di micidiale. Ma non, questo non lo so, la verità ti dico, non ti voglio dire bugia, questo non lo so. Io so soltanto, io ci ho lavorato perché entravo in cava a coso, a caricare, e su a Monte Alvaro, ho caricato qui alle cimenterie di Scala di Gioca, ho caricato alla cava che c'era muro, e solo entrare ti mettevi le mani in testa, a uscire carico, dovevi fare quattro segni della croce, e ho caricato su a Tempio, in cava, e già ne ho visto di cotti di crude. Prima di entrare lì eri un'altra vita. Eia, movimento terra, io ero addetto sia al trasporto del camion che al rullo. Perché ti fanno scendere in quei cazzo di trapiombe, poi a fame, carico, Giulia. E infatti, la cava non è facile, Anto, non è facile. Poi soprattutto quando comincia a piovere, no, no, guarda, non, non mi pento di non esserci più entrato in casa. Vabbè, pure quello che ha fatto per campare. È positivo, positivo, e ce ne fosse altro. A tutto motore, grazie. Eh beh, lì mettevi il primino e dovevi augurarti che non ti si spegnesse il motore. Se no conveniva a me aprire lo sportello e ti butti giù subito. Vabbè, già si blocca. Ehi, già si blocca, già ti va ricato un paio di camion e rotoloni. Vabbè, non penso che si spenga il motore. Quando va. Infatti, quando schiacci devi schiacciare e tenerlo giù l'acceleratore. Ma qualcuno magari gli è anche successo. Qualcuno gli è anche successo, se l'ha vista brutta, qualcuno gli è anche successo e poi sono andati a recuperare il camion o quello che rimaneva giù in fondo alla cosa, alla cava, perché tanti si gira col peso che hai in cassone, allora sai come ti disimpenna. Possiamo immaginare già. E lì quando carichi in cava, nelle cave dove entravamo noi, la maggior parte delle cave peso non ce n'era, dovevi fare a occhio, e la maggior parte delle volte caricavi una volta e mezzo quello che portava il camion. Non me ne voglio ammentare, guardavo quelle gomme, cazzo, a centro si toccavano, cazzo, era un boom, scia. Però è anche molto rischioso fare qualcosa. E che cambia via, che tu sempre? Avevo un... mi pare che era un 80. Un 80, sì. Aria, quando non stavi da in chiave. Come a tu? Tu fumaresti un'incia da in chiave. Lì... tu hai tutto motore, poi cosa non ne hanno, di velocità non ne hanno, ti ripeto, motore e su che andiamo. Vabbè, si è fatta con l'esperienza. Anto, quello c'era in quel periodo e quello è stato fatto. Vediamo la prima volta che stanno in quarantini. Non me ne voglio ammentare, mamma, guarda che l'ingresso passavi giusto con le gomme, se sbagliavi ci scendevi. Guarda, a me il giorno che ho preso servizio il primo giorno di lavoro, mi ricordo avevo preso il camion lì al rifornitore di Brisci, figurati, e mi avevano detto di salire su, tra Muros e Cargeghe c'è una cava, anzi no, bugia, mi pare che Muros, all'uscita di Cargeghe era la cosa, la cava. E lì chiedendo si sono arrivato. Cazzo, la bagliere, devo arrivare in Chivi, non sarei maculo. In Chivi devi fare. Alla fine c'è dovuto fare. Scendere già sono sceso, ero vuoto. Poi il tipo che mi stava caricando si è accorto che non ero molto pratico e poi mi ha detto lui come fare per uscirne da lì. Il primino è schiaccia tutto motore. Eia, e mi ha detto nel caso ti si blocchi qualsiasi cosa e chiudi si pure immediatamente. So che alcuni anche si accompagnano con lo scavatore. E una volta io mi ricordo c'ero sceso sì nei mozzi. E con una pala meccanica gommata, ma cazzo che non era una pala, quello era un mostro, cazzo, ha fissurato un camion e cantuvera. Oh sì, nei mozzi mi ci sono sceso, tu figurati quanto sono alte le ruote del camion. Ebbè, ero ca- carico. Ero carico, cassa di Maffuttito, attacca a pattinare e per uscire dal cancello, perché passavi giusto giusto e c'era una salitina, no? Cazzo, ho detto, se mi fermo qua, guai, ti si gira il camion, perché era tutto un pantano, cazzo, ed è tutto coso di coso calcario in terra, lo sai come pattinava? Come posso immaginare, come fare pressione, cazzo? Lo so. Va bene, cosa si vuol fare, Antonio? Prima le cave, cazzo, quanto hanno lavorato. Se no quella di Monte Alvaro, lì è bella, bella come cava, un bel sicura. Lì andavo a caricare il Mistofino per fare, avevamo fatto tutte le strade del Rally a Stintino. Certo. Si lavora un riconosco lì alla cava, Monte Alvaro. Eia, no, qua in Monte Alvaro è bella, si poteva entrare bene, cazzo, le cose, le terrazze erano belle, belle grandi, no, veramente, cazzo, bello. Poi all'uscita c'era il peso, entravi scarico e ti pesavano, all'uscita dovevi entrare, firmavi il foglio che ti davano della pesata e te ne andavi. Poi a caricare con le pale meccaniche, due colpi di penna ed eri già carico. Cazzo, sono dei mostri le pale che hanno in cava. Non sono come quelle. Ah, giusto, da che caricare a caricare? Come a scaricare, Antonio? Se carichi i cavi, dobbiamo scaricarlo. Via, corri ribaltabile. Chiave, va andare sul posto. Sì, una volta che uscivo dalla cava io sapevo dove andare e poi scaricavo con ribaltabile. Apri le sponde, tiri su con ribaltabile e carichi tutto. Ma te le ho viste già qua come fanno? Le ho viste. Cosa c'è? Vuoi parlare con Giuseppe? Vuoi parlare? Cazzo, manca. E capera tigre. Boia. No, bello è come lavoro, è bello perché stai a contatto con la natura, sei sempre fuori, bello. A me piaceva, come lavoro mi piaceva. Prezioso, però. A cui te ne sei andato perché ha chiuso? No, me ne sono andato perché mi ero rotto le scatole quando sei giovane, Antonio. Il discorso è che dovevi mangiare fuori, mi portavo la borsa a frigo con la roba già pronta e poi rientravi la sera. E certo, praticamente perché sei giovane da voi, poi basta, no? E ma il discorso lo sai che prima c'era anche il lavoro, andavi via da una parte e poi dopo due giorni stavi lavorando da un'altra parte. Ma va, mi esci da una parte e andi senza mangiare. Eia, è così, Antonio, è così purtroppo. Ma è meno male che altri successo in questi tempi, noi siamo tutti due. Guarda, non lo so io, quello che dico è questi giovani dove li metteranno? Cazzo, c'è un esercito, ma di giovani anziani, perché c'è anche un sacco di gente anziana che è rimasta senza lavoro. 50 anni, 45 anni, non va più nulla, cioè non ha lavoro, cioè si stacca senza gradione qualcuno pure niente. E infatti, il discorso è che quando hai quell'età sei troppo giovane per la pensione e troppo vecchio per trovare un lavoro. E apri una travagliata. Poi, io mi ricordo a tu, ci seguivano i capi cantieri quando eravamo ragazzi per vedere se avevamo voglia di lavorare e stavano cercando manovali ogni giorno. Non vede uno nell'altro, non vede nulla. Anto, Il discorso è che oggi come oggi non ti vogliono manco in campagna a zappare, perché non è, manco la campagna a rende, non c'è più nulla, nulla, nulla, nulla. Prima uno dice da un travaglio e per l'altro. Allora perché? Se dico che devi dire, se no fa parte. È positivo, positivo. Aspetta un secondo, Anto. Hola. Mi senti? No, ma che ti sento, Giuseppe. Adesso sono col 48. No. Ora c'è il microfono normale. Questo qui è... Oh no, le cose, le DM1000, Anto. Ma è troppo. Ma è tutto aperto il micchio? Cappa. Ah, vabbè, ma che è quello che le faranno? La multi? Cappa, cappa, proprio lui. Proprio lui, Anto. Diego, ce n'è? Già c'è l'eco. E allora va bene. Ma. Stavo dicendo che... E con quello lì, cosa sale? Che un passaggio? Da... Ora, 9 più 20 modulato, Anto. Vedi che c'è qualcosa. Già va bene, già va bene. E tu bene mi senti? Abbastanza, Giuseppe. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma non va bene. Ma si parlate che si è potuto recuperare. E infatti, meno male, cazzo. Lo sai quanto mi è dispiaciuto? Dispiace, sì. All'amico mio gli devo fare un monumento grande quanto questa casa. E beh, oh, cavolo, mizzega cazzo, una dietro l'altra, Non so, Giuseppe, troppo. Sono cose che capitano. Sì, infatti, ma se capitano agli altri qualche volta già è meglio, no, Anto? Non so, diciamo che c'è stato una distrazione, dai. E infatti, ma la schinciola. Ah, ma ti hai sempre come si, Sì, è tutto a posto. Gli ho fatto tutti i collegamenti nuovi. State l'alimentazione giusta. Sì, tutto a posto. Ma a proposito, Giuseppe, ma c'è ancora quello. Quell'alimentatore di Grant. E qui di fronte a me, no, era, mi pare ZG. Uno era Midland. Sei sicuro? Io c'ho lo ZG e poi l'altro, quello switching, l'ultimo che ho preso. Giuseppe, quello ZG sta assoluta. Quello ce n'è un altro ancora. È probabile, bisogna che controlli su e... da qualche parte qui. Ma è ancora più l'Alan. Non me lo ricordo, Anto, devo essere sincero. Quello che te l'ho fatto avere io, da una persona. Probabile che ce l'abbia qui a casa, Probabile. Già mette più. Me l'ha parlato pochi soldi, me l'ha parlato. Poi proprio te l'ha parlato e ha detto che... non so cosa è se te l'aveva rimessa a posto. Infatti, quello me lo ricordo, però cos'è non me ne ammetto. Non ce l'hai lì nella stanza. Ho le ZG è l'ultimo che ho preso. Ma funzionava quello lì. Ma non riuscivo a alimentarli il baracchino, ti ricordi che avevo sempre problemi? Poi se l'aveva messa a posto funzionava. Però poi aveva cosa di alternata, da poi non so cosa aveva successo, mamma mia, un calvario era. Vabbè, quello il mio è un bombone, il mio GBC, cazzo, funziona sempre bene, funziona. Che positivo, positivo, io adesso ho questo qui della ZG e quell'ultimo... che ho preso, quello, lo switching, che non mi ricordo manco che marca è, se devo essere sincero, tanto, e niente, ti dico che vanno tutte e due alla grande. Io guarda, c'ho questo della GPC, pagando la comparato, non me ne sono pentito per niente, funziona sempre bene. E beh, poi soprattutto quando è trattata bene la cosa, tu ancora meglio. Sembra nel poco c'è abitudine, gli strumenti, quello, ma fai, quando l'amplificatore, quando l'alimentatore funziona bene, e basta. E infatti, infatti, è proprio così, e altrettanto sto facendo io. Io ho sistemato questi due qui sotto, tanto, e qua sono troppo contento. Mi sembra quello ZG non è strumenti. No, quello ZG non ha strumenti. Ha le due cose per le bananine e in più puoi attaccare il capetto con le cose, con gli occhiali. Lo stesso, Giuseppe. Cavolo, se va bene lo stesso, alla grande. Capitura, già. E infatti. Degli strumenti non me ne frega proprio nulla, a me pensare se funziona la vera cosa, l'alimentatore mi risponda a quello che voglio io. Infatti, l'importante è che l'alimentatore alimenti bene il barattino, alimenti bene tutto e poi per il resto di avere grosse cose non interessa manco a me. Ho preso questo qua, poi già l'hai visto, ti ricordi quello con gli strumenti che avevo preso? Quello lì lo stesso, quello sta andando, grazie a Dio, troppo bene. Non credo di andare peggio. Più che bene. Poche di regolazione, pulsanti, pulsantini, manopole, c'hai le cose, lo strumento per leggere, anche troppo per me. L'avevo visto uno, ma non è tutto digitale. C'ha la lancetta, sembra uno smitter. Ah, ne ho visto uno che era una cosa troppo bella, guarda. Ce n'è di roba bella in giro, ce n'è. Digitale era. Lo so, Anto, lo so, però qua anche se non ci fosse stato strumento, a me l'importante è che alimenti i baracchini, tanto quando sto parlando gli alimentatori sono sotto, mica li guardo. Ma è un bel esigente, si tratta che è fantazione, con alimentatori. Mannaggia, Ho mangiato, adesso fra un po' vado a guardarmi un po' di televisione, Anto, e via, e anche oggi c'è passata, domani è un altro giorno. Ma domani esci? Non lo so, Anto, adesso vediamo come si mette il tempo. È positivo, nel caso, in una maniera o nell'altra, se già ci sentiamo, ci mancherebbe altro. Bella, già son belli. No, è brutto, è un bravato, è poverino. Tutti hai tanto di cristiani come si dovete animare. Magari, ma noi così. È tanto incide, si tocca, fa le scusa. È proprio come se una messina minore, infatti. È positivo, poi già se ne accorgono loro quando sono trattati bene. Se ne accorgono. Ma sai quanto è intelligente, Giuseppe? Voglio vedere io. Dice che la gatta non è intelligente, non è vero nulla. Dice che il cane è intelligente. Oh, pure lì. Ma sai cos'è il gatto, questa cosa che è per i fatti suoi, però visto che voi già lo comprende già. Beh certo, no, il gatto è, rimane più, più indipendente ed è anche meglio che sia così. È positivo, positivo a tutto. Anto, noi 12 anni con Kira a casa, già l'avete conosciuta? No, io mai. Quindi figura, oia. Mamma mia, poi quando vengono a mancare così e la mette la piglia a cuore. È positivo, no, no, qua no, Anto, perché voi, ma poi ti riaffezioni, mamma mia, casa, non vi voglio manco pensare. Va bene, cosa vuoi fare? Cosa dobbiamo dire noi che ci portava? E infatti, infatti, è la nostra qui, voi, casa, meglio, meglio non pensarci. Vogliono cercare anche le sue? Infatti, Anto, infatti. Così è. Beh, Antoine, amiglioriamo. No, vabbè, fai come, come vuoi. Positivo, vai, tanto nel caso se coincide. Già ci sentiamo domani. Salutami tutti, Antonio. E niente. Buonanotte e ci sentiamo. Ciao ciao. Giuseppe, ci risentiamo, vai. Va bene, mi senti, sì, un'ultima cosa. Tre porte chiaro. Ma non si esce da senza lo smitter, così esce più o meno. Sì, va benissimo. Ciao Giuseppe, vai, ce la ricettiamo, K, adesso vediamo se entra qualcuno, se entra Claudio o qualcun altro. Ciao ciao. Ciao Anto, ciao ciao. Yeah.